una ragazza che andava a raccogliere i fiori. I fiori li cercava, erano tutti lì, tulipani, rose, tutti i colori. Lulu, Lulu, dove un fiore ci sei tu? Lulu, Lulu, con un cane e un gatto vai. Lulu, Lulu, sempre in viaggio tu sarai. Lulu, Lulu, e l'Europa girerai. Sette petali di un fiore, con colori assai diversi, rosa, giallo, verde, blu, quel che cerchi proprio tu. Tanti amici tu incontrerai lungo il viaggio che tu farai, ed un fiore ci sarà che un messaggio porterà. Dove un fiore ci sei tu, Lulu, Lulu, con un cane e un gatto vai. Lulu, Lulu, sempre in viaggio tu sarai. Lulu, Lulu, e l'Europa girerai. Discendi dal regno dei fiori, tutta una spilla a forma di cuore, che usi sempre quando ci vuole, per aiutare chi incontrerai. Per cercare il tuo fiore, quanta strada tu farai, strani tipi dietro a te, per trovare questo fiore. Ma quei cieli è sempre pronto, lui arriva in tuo aiuto, lascia semi dappertutto, puoi scompare come il vento. Finalmente l'hai trovato, il tuo fiore colorato. Nel tuo splendido giardino, coltivato dal bambino.